Drommi. Tatalina. Vabbè, Luca. Che è? Io, ciao. Ciao, vabbè, che te la cosa. Ho capito. Aspetta io. Che ti racconto adesso? Passaggio un attimo. È uscito tutto a tratti. Male sto uscendo. Sai che abbasso il volume. Perché male sto uscendo? Non credo. Adesso va bene. Ah, forse senti parlare la radio. Boh, non so. Adesso già va bene. Ad un'asta alpini Alpe Udine ad un'asta alpini, che bella, andiamo tutti lì, andiamo a mangiare gratis. L'hai visto? Che cosa? Mi sei detto, mandato il cellulare. Non sapevo. Chiama. Ciucchicciù. Tattali. Qui sopra. Clum. Sì. Io. Cosa lì, non c'è proprio nessuno in giro, nella Natalino non è niente, questa mare è in giro, Natalino, vuoi dormire tu? Tu ti proteggi e basta. Tutti in girella, Che, buonasera. I carabinieri. Ciao Antonello Fontonio. Ciao Fra, mica stavo cercando uno per riparare la cazzola, frigoriferi, su internet. Non so se una ragazza o che diavolo sia. Sì, ce la pigliare in culo, tranquillo. E vabbè, dovrei morire. Ti facevi magari 50, 100 euro in nero, cosa vuoi dire? Cara, è per la tua, che ci dice? Nulla, cosa vuoi dire? Io sono a Porto Torres adesso, ma mi ascolti lì? Sì, ti ascolto, dove ci fai a Porto Torres, a mungere? No, sono a trovare una cosa, al volo, capito? Già va bene. No, e quanto ti sta arrivando lì da te, da Papà Tango? 9:10. Papà, già va bene, allora dai. Però non c'è nessuno qua. No, a parte, c'era Luca poco fa, però non l'ho più sentito. Gappa. Sì, un'antenna di gomma, sto uscendo, ma non è, capito? Già di gomma con l'antenna, già. A voglia. Yeah. Sì, per essere a Porto Torres va bene, dai. Certo che va bene. Sì, quella penna famosa, tu, no, Antonio, te lo ricordi, quella caricata al centro. Già me la ricordo, già esce bene, a voglia. Sì, ne ha tolto quella della radio, ce l'ha messa a posto della radio, quella della radio. Ma la tua, a me lo esce, come si deve. Che si va ferma. E io. Chiama. Pino che allunga, intanto. Non mi ascolta Franco, non mi ascolta con questo baracchinetto qua. Cavolo, ma attenzione Franco, se ascolti qua questa piccola stazioncina, gatto! Già ti ascolto, guarda, sta arrivando bene qua, io sono a Porto Torres, praticamente vicino al porto, dai. Stella, arrivi, K, dimmi come ti sto arrivando io, vedi un po' qua dalle tue coordinate, K. 9.10, radio 5, Luca, qua parpattando. K, bella la radio, va bene, amplificata, microfono normale sempre qua, K. Va bene, ti ascolto benissimo. E anche tu sei quasi 9.95, dai. Stai arrivando bene, Fra. Sto utilizzando quell'antenna corta che avevi visto tu, capito? Sempre quella. Un giorno proviamo una di quelle che ho io qua, Fra, con la molla o senza molla. Vedi un po' se rende, capito? Se la vuoi montare e fare queste prove, K. Vabbè, se ci sei, faccio, ma la trincia la provo, dai. Ehi, quale? Quella con la molla, perché l'altra non la posso mettere, Luca, che mi sacca la capozza. Ah, ehi. Ehi, allora, sai cosa faccio? Domani mattina te la preparo, così te la taro e così passi e te la provi. Ehi, capo. Niente, questo è un Midland Aran 48 che sto messo in vendita a 70 euro, ma non contatta nessuno. Boh, uno mi ha contattato, mi voleva dare un linearetto. A città se me ne faccio. Cavolo! 70 euro regalato. Ma poi questo ha 80 sotto, 80 sopra, watt, effetto elicottero, eccetera, eccetera, ma non ti dico, ma è sempre un Aran 48, capito? ma a meno di quella cifra non lo do. Ciao! Dai, 70 euro è rigarato, c'è apparecchio russa. Perché ormai a 70, a 100 euro ti dicono trovo uno con frequenzimetro, effetto elicottero, comodo, acciatti. Sì, ho io due, cioè il 48, lo stesso, non per la spedalità, però non ha effetto elicottero, sicuramente vorrà regolata, è una scheda sotto, ma è da regolare. Bisogna vedere che effetto c'ha, infatti, questo è regolabile, così, senza ecco, metà, è così al massimo, capo. Esce bene, va bene. Vabbè, domani mattina fammelo vedere quella razza. Questa è macchina Fafaville, K. Quanti platti dà quella radio lì? Questa era senza niente 20. Regolabili? Sì, sì, da zero, proprio per quando devi attaccare la lambarata. K. Vabbè, dai, domani fammelo vedere. Guarda, ti faccio la prova subito. Così sono staccato, 0 watt. E questi sono i watt al massimo. Gava, così sono staccato. E arrivi sempre bene, dai. 9, da 9 a 9.10. Quasi 9.15 ci sarebbe. Io sono a Porto Torre, devi considerare che sono vicino al porto. Ciao, aspetta. Arrivi, K. Avanti, Pomponio. La voglia che arriva, ci mancherebbe. K, disoggelo. Praticamente, Luca, gli ho fatto l'antenna, l'ho messa nella capozza, la protezione della radio, gli ho fatto fare una buona marcia e va bene, dai. E poi allora, Luca, guarda! Dimmi tutto, sono qua. Sempre bene, mi ascoltate, sì. E la voglia. Si tratta di arrivare, ma funziona, insomma, tutto. Funziona, sì. Attenzione, Franco, ci ascolti ancora qua, capo. Hola. Grava. Franco! Ehi già! Che telefono dove ce l'hai? Sto guidando, Luca, a te un attimo, che c'è polizia qua. Ehi, capo. Ciu. C'è un casino qua, la metà lì basta. Dove sei, Franco? Se ti ascolto un po' saturo. Adesso sono entrato nel vicolo di coso di Ottava, dai, ho staccato. Adesso sì, facciamo benissimo. Forse ti sto dando troppo ingresso. No, è che eravamo troppo vicini, capito? quindi lontananza va bene, ma in vicinanza va in saturazione. No, ho troppo ingresso, 3 watt da questa radio, Luca. È strano, guarda se senti a me. Ehi, senti a me, saturando? Si è attaccato, watt a 0, 2, sarebbero. È diverso lineare quello che c'è tu, Luca, di questo. Ah, è vero, sì. 747 in giro, sono di grissi. Però sì, non fa saturare. Ma quello non satura, già lo so, ma io ho il 150 qua, capito? Quindi in vicinanza va in saturazione. In lontananza io lo uso e buh, capito? Beh, intanto vediamo un po', non c'è nessuno. Vado a prepararti intanto quarantena là, così te la prepari, domani poi passi te la prendi, dai. Che devo mettere la staffa nella ringhiera e tutto. Capo! Sì, provala, così la voglio provare a vedere come esce, dai. Quella con la molla, perché l'altra mi spacca il tettuccio. Ma se l'ha messa, guarda, ce l'ha Carlo. Se l'ha messa in macchina, eppure non mi ha detto niente. Anzi, va benissimo con l'antenna. Ehi, ma tu gli hai dato quella con la molla o quella fissa? No, no, gli ho dato due di quelle fisse. Che una la regoli con lo stiletto, che è in cima, per le stazionare, e l'altra la regoli da sotto, dalla base, al vitio sui di la ghiera. No, non ne ha voluto neanche con la molla. Vabbè, quella con la molla non spacca la cappotta, è il morso, vabbè. Quanto sono lunghe queste antenne? Aspetta, vado a preparartela, così ti mando un video e foto. Capo. Vabbè. Vada lunga lunga. Gara gara. Adesso che abbiamo cominciato a offrire, sono con le MP5. E già va bene, Antonio. Meglio così, sono contento. E Schwartz. Tenga, picche 50. Oh Luca, allora se quell'apparecchio lo metto su questo 150 dovrebbe andare bene, perché puoi diminuire i watt, no? È logico. Non sai che ci sono gli attacchi BNC da cosa? Da... Ma, in quel negozio dei cinesi a Città Mercato ci sono i BNC, ci sono... Cazzo, dalle cinesi, roba buona, a me. C'è anche cosa, c'è, la RCA a BNC. Se c'è un portato di quelli, vuole un vecchio, hai capito? Non puoi tranquillamente usare, ci manca solamente i PL, ci mancano, e siamo a posto. Se c'erano stati i PL, stasera me la, basta, stamattina me l'avrei comprati. Infatti. Sono stato a farmi un giro stamattina e lì c'erano gli alimentatori, c'erano eccetera eccetera. Ho visto i BNC, ho guardato cazzo, questi non c'erano prima. C'erano sempre i BNC, specialmente per i tipi di VHF modello vecchio. Oh, iaia. Stasera mi faccio il raviolozzi. No, io ero portatore, stavo facendo una corretta, questo bisogno. Capito? Scappa di Rogero. Posi Trudio. Andavei. Bene, va questa radio tu. Ah. una bomba, sì. E vabbè, sono distante. Mi sto passando il boom e sono messo sotto con le cuffie. E sto parlando quasi a un metro dal microfono, messa giù. E ho già beh, un metro di brazzi. L'ho messo distante, capi? Ce l'ho devo tenerlo sopra il tavolo, devo fare così. Ah, te mi sa che lo metto sopra il tavolo. E schiacci col piedozzo, col dittone del piede. Adesso mi organizzo una leva, schiaccio dal pavimento direttamente al micro, al tetto della portante. Ma non c'è nessuno. Io ero fuori, sono rientrato poco fa. Posso farti la bassa? Falla. Aspetta che vado in cucina per il telefono, aspetta. Oh Franco, c'è la segreteria telefonica. Franco. Hola Franco. Franco. Franco. Attenzione Franco. Franco. Attenzione, Franco. Attenzione, Franco, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Avanza, prova. Attenzione, Franco. Hola, attenzione, Franco. Hola, Franco. Hola. Attenzione, binario 10. Allontanarsi dalla linea gialla. Chiamalo. Franco, ci sei? Chi c'è, avanti? Franco, California, ci sei? Franco. Hola. Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Chi è là? Ciao Gianni, buonasera. Poi Frank, e allora? A posto. Tutto a posto, niente in ordine. Soia, a carità. C'è per dolore il gioco, bra. Posso dire che anche io sono tutto a dolore, ma questo te mi fa male la schiena. No, io mi ho fatto le lastre e praticamente ho delle calcificazioni alle ossa. Ah, secondo me io sono tutto pieno la truce, ma stessi. Non lo so, ma mi davo l'idea. E io sto. Artrusi sicuramente. Io ho artrusi. E allora, artrusi sono. Era portatore che faceva la commissione. Ho messo il baracchino in macchina e lo stavo provando. Con quell'antenna piccolina. Santiago lo vedi e ci assasso stava arrivando. L'ha portato? Ma porto a torre? A porto a torre c'è vicino al porto qua, c'è. E già buono, anche io arrivavo così. Io da quando partivo, mi chiedi a Claudio, da quando partivo dal lavoro, se arrivavo a casa, partivo da 9.5 in poi. Vabbè, sempre c'avevo 100 watt sotto però. Eglia. Allora mi ha regalato un apparecchio, questo è vicino, un 48 modificato. No, già mi dico. È un regalo? 50 euro modificato. Se modificato lo vendi bene, fra, lo metti su subito su qualche cosa così e lo vendi di lusso. Vabbè, sono a cominciare con questi un po', però non l'ho provato ancora che è per me, no. Per verniciare non ho problemi. Bene, me lo vendo già, cosa me ne faccio? Bah. Adesso ci ho messo quell'Intec in macchina e va bene lo stesso, solo che non c'è ecco, non lo so. Oh Giulia, andiamo a casino. Bene, mi ascolti in radio. Giusto. E sto usando il Thunder più 3, quello grigio. Io vabbè. Giulia. Io mi sto prendendo tutto. Perché? Perché devo passare ad altre frequenze. Ah, non si dice. Patente. Sto scherzando. Ma quando vendi, poi ti ricopri torno a tutto, ovviamente. Io lo so. Ma uno lo vuole vendere, Luis. Intanto ne ho tutti. Ma sta a venderlo, quello lì. Cosa di nevo. Ce n'è un bel, una quanta ne tieni, due, tre, boh, basta. Sì, vai fare. Fino a che non hai, uno. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, aspetta, sei, sette, otto ne ho, anzi no. Cazzarò. Cosa me ne porto? Quando c'è sempre con la stessa radio. Le puoi accendere ogni tanto. Ah, diciamo, uso sempre questo. Ma io ne ho 5, sono arrivato a 5. Eia! Ah va, non li può fare più, cosa me ne porto? Se non si parla qui. Va, non c'è più nessuno. Ciao Emanuele, buonasera. Ma pensi sei tutto, ma pensi sei tutto, non arrivate a bene. Buonasera a tutti comunque. Ciao Emanuele. Beh, Emanuele, a Londra, tutto cazzo. Veglia, ascolta me, fra, ti volevo dire, stamattina mi sono dimenticato che sei allontanato, ma sabato per quella roba lì puoi venire, non c'è da fare, non lo so, vedi tu, o se no è settimana. Ma lo so se sabato c'ho i figli, vediamo, faccio sapere comunque non mi piace. Veglia, casomai lo guardi, se ne vale la pena, se no non lo facciamo neanche. Vabbè, c'è da caricare, si può caricare, non è un problema. Si taglia il tubo, si mette la valvola e si carica. Sì, perfetto, lo fai sapere tu quando sei libero allora. Ma pagava, ma tu c'è fatto mattina la musica? No, io lavoro di sera. Di sera, oggi sono di riposo, domani sera faccio dalle 5 alle 8 del mattino. Vabbè, dopo si libero, no? Libero, libero, devo riposare, la sera devo dormire a pigliare il zinco. Ma tutta la notte il video? Allora, ha dormito. Ma cos'è, guardia giurata armata o senza armi, senza essere armata? E adesso stiamo facendo porterato, poi secondo me è guardia armata. Ho capito, sì sì. Vai già, grazie a comando. Le prendi già. Ehi, ehi. Sì, dai, va bene, Emanuele. Te lasciate travagliare. Anche perché non c'è niente in giro, non vi ne travagli. Quindi, se ce l'hai, chiedetelo conto, Emanuele. Piano piano, dai. Lo so che sono sacrifici, però al fine mese almeno c'è qualcosa. Guarda che stanno cercando, se c'è qualcuno. Prova a chiedere. Ma ti lasciano mezzo a fondo così. Dimmi una cosa, ma con la tua macchina devi andare? Beh, al lavoro sì, e poi alla fine del mese ti danno un tocco per la benzina. Ah, io ho capito. Dimmi, in che zona vai? Che zona fai più o meno, dai? Allora, in pratica non so se sei per Cermiglio o se dov'è. Capa di positivo, sì, Porto Torres. Bravo, facciamo lì, quella zona lì, poi facciamo la zona lì per andare a Fiume Santo, nella strada, dove ci sono i cantieri, dove ci sono i tassenni, quello facciamo noi. A Fiume Santo, dove c'è la centrale dell'Enel. Bravissimo, però non ci andiamo lì a Fiume Santo, stiamo dove ci sono i lavori in corso. Ho capito, sì, sì, sì. E che guardi a fatti lì? E lì facciamo un piantonamento tutta la notte per controllare gli attrezzi, il gasolio. Ah, giù con frigo. Quelli lì, i lavori sono quelli lì. Ho capito. Assicurati in tutto? Certo che sì, Castarnito non pesava piano. Ho capito. E quindi cosa, come ti pagano a te, ti lasciano mezzo a fondo, praticamente c'è stato il figlio, così? Fai tutto il mese, adesso in pratica a me mi toccano il 20 di giugno, però c'è tutto il mese pieno. Ha giù compreso, ma un mese non ti piace. Lo so, sono tutti così, fra. E tra l'altro, come non facciamo una cosa giusta già? Cioè, non li vedi più quei soldi, o li vedi in qualche altra maniera? No, a vedere, li vedi il mese prossimo. Allora tu in pratica devi fare un mese, adesso se tu stai lavorando quei soldi te li dà il mese di giugno. È così, è giusto che sia così, te li danno tutti così, non te li pagano a mese in anticipo. È così, sì. Ma vogliono gente giovane lì. Io fra, ci andiamo. A me non mi invita, io vado a 62 anni. A me sì. Io non sto scherzando. Se dopo con i dolori che ciò che tu fai a rotti, a un freddo, ma c'è niente ancora, ti prendo. mesmo. Oh, bravo, eh. Già pagato. Deve comprare la divisa, deve comprare tutta la roba, ti daranno un giubbotto, è una camicia. Poi i pantaloni deve comprare la buccia per la divisa. Sì, cazzo, fai la genesi per le tasche, vedi. Guarda che io dico questo, ma quando mai una ditta che prende una persona a fare guardia lì non gli deve dare la divisa con le scarpe e tutta la roba, boh, se uno se deve comprare la roba da tasca già non la più può prendere, e chiuda, poi deve pulire il gasolio, manda a travagliare, ah. E poi non è solo il gasolio, poi c'è il gasolio, è il tutto, E anche noi ce le pagavamo le magliette, all'inizio ce le pagavamo, poi ce l'hanno date loro perché ci siamo pure imbellati, però all'inizio le pagavamo noi, capito? La maglietta, la felpa, quella che ci usava d'inverno, tutto quanto ti paga. Allora già il discorso è questo, che devi mettere il gasolio tu per andare lì, cioè consumo di gomme, consumo di tutto, capito? Loro dice ti rimborsano, secondo me te ne danno la metà del gasolio di quello che costa. Perché non c'è la macchina della lì? No, pure la macchina tua deve andare, oggi un po' preso, si sta tanto buon bene. Ci faccia la macchina e ci devi mettere su di aggiustarla. Quindi quando vedi 1200 ti fai un danno alla dipendenza e già ci arriva su. Sì, ma non bisogna essere pessimisti, lo so, è così. E dopo se non c'hai macchina come vai? È un casino. Però come ti avevano anche la macchina loro, no? Ma non hanno la macchina loro, no. Macchina dell'azienda non ne hanno, almeno c'è la macchina sua. E vabbè, se stai andando, poi se trovi di meglio te ne vai, non è che ti sei curvato con te, no? E beh, certo. Anche la peggiante della macchina, tu. Ah, io lampeggianti, lampeggianti sono bene dove ci sono i lavori e basta. E vabbè, macchina in borghese, radio, non pensa? Sì, le radio sì. Ah, c'è gli avvette le radio. Quelli sì. Portatili, HF. Sono frequente, sì, sono quelli portatili, sono come quelli che usavamo nei concerti. UHF? No, sono quelli banfe, non si vedono cazzo, sono da 5 km di distanza. E se devi chiamare la centrale come fa? Al telefono. Non ci credo. E vabbè, un po' l'acqua di rosa questa azienda, perché ci sono quelle che sono tutto organizzate, c'hanno i mesi, c'hanno tutto quanto. Quelli sì, e dove ero prima sì, dove ero a Milano, c'erano le macchine e tutto quanto. Io con la macchina andavo lì a proprio al posto di lavoro, poi con quella lì andavo e facevo la ronda. Vabbè, ma il lavoro che fai tu con te, fisso, arrivi lì e ti parcheggi, tu basta, non devi fare niente, no? Sì, piantamento sì, arrivi al posto di lavoro e ti fermi lì e pensate ma la mangiano. Cioè non fai nulla, solo usate in macchina. No, ti fai il giro dove c'è il cantiere ogni tanto, non è che hai bisogno di macchina. Ma ti avrei dove ti una fila, ovvio. E arrivi che alcuno già da dare con un morso di roccia a capo e dice di te. Adesso vicino a Treviso un amico l'avevano, li sono saltati da questa villa che doveva controllare di notte, li sono saltati dal tetto che sta di cutturi, in abbia di una pittura e tutto gatto. Albanesi e anche i vigili notturni romantesi, capito? Chi si zinga ricatta che andare a pure a ramo, ognuno, andare in 3 o 4, l'intento, e con una vetta giusta, te li dai. E da poco le avevano trovate la zona industriale a rubare con quelle bobine del ramo. Hanno acciappato tra la raggio entrare pure il ramo, il vino, il tutto, girate. E no, me lo pagano bene, sembra così ma lo pagano bene. Siamo a mattaccia di quei fili pesanti, non so se li conosci già, quelle trecce grosse. E già le conosco, sì. Io alla zona industriale c'entravo col furgone, entravo a fare le consegne, andavo al motel a consegnare, andavo a Fiume Santo, e tutte quelle zone le facevo. Le prendeva noi, ma non c'era nessuno per questa. E non ti bastiamo noi. Ehi, mi ha sentito un attimo, riprendete voi, dai. Allora, affetta salsista, mi odia. Affettare sempre. Aspetta, che provo questa radio a vedere. Voglio vedere come arrivo. Guarda questo segnale adesso. Sto facendo con un fatto già. Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Superi più 30. Sì, quasi su di me. A minimo, adesso sono a minimo. capito. Fra, ti posso telefonare un attimino? Vabbè, aspetta che ho messo là. Adesso l'ho messo a 10, dai. Ehi, devo chiederti una cortesia. Oh, fra, non trovo il numero.